24 di Giovanni Minoli. Volkswagen sbarca nella città della Fiat e si porta a casa la Italian Design di Giorgetto Giugiaro. Lo storico marchio Pininfarina passa all'Indiana Mahindra, è un'altra eccellenza italiana che se ne va. Io non sarò eterno. Papà, io sono pronto. Secondo me è giunto il momento che mi passi la mano. Guardate che io le idee ce le ho. Dobbiamo variare, diversificare. Star, Carapelli, Bertolli, il riso Scotti se li sono comprati gli spagnoli. La gancia è stata comprata da un russo. Valentino ormai è di un emiro del Qatar. Bulgari, Fendi, Gucci, Loro Piana se li sono comprati i francesi. Savasandir, Parmalat, Galbani, Locatelli, Invernizzi, anche loro i francesi. E in Italia chi c'è rimasto? Professor Giulio Sapelli, docente di storia economica all'Università di Milano, buongiorno. Buongiorno. Professor Sapelli, l'azienda familiare italiana è in crisi? Ma l'azienda familiare italiana è in crisi e nello stesso tempo resiste e ha un atteggiamento proattivo, perché si nominano soltanto quelle che perdiamo, perché sono vendute. Certo, sono anche dei appunto, nomi importanti. Sì, appunto, voglio dire, se mi fa finire un attimo, le stavo dicendo che appunto sono in crisi i nomi importanti, soprattutto perché alcune antiche famiglie imprenditoriali a un certo punto desistono. Come è stato il caso appunto dell'Italcementi e certo, dei Pesenti, certo. Avevano ancora dei figli giovani, avevano dei cugini, avevano un'organizzazione familiare. Lei sa molto bene che tantissime di queste imprese continuano a vivere attraverso il reticolo della famiglia allargata, naturalmente, non della famiglia nucleare. Ma globalizzare e internazionalizzare, che è necessario, sembra che voglia dire soprattutto vendere, però. Sì, ma ci sono alcune piccole e medie imprese che sono entrate nei mercati globali, certo. E hanno avuto proprio per la globalizzazione l'occasione di crescere, perché nessuna grande impresa può cogliere tutte le occasioni che offre lo sviluppo, e qui allora tra i pori, tra gli interstizi spesso, tra le filiere idiosincratiche, cioè i ultra specializzati, si infila e bene, si radica la piccola impresa. In fondo l'ITC, no? Ha abbassato i costi di transazione, ha dato uno sviluppo enorme alle imprese familiari. Il problema vero sono due, che aveva già individuato il grande Alfred Marshall nei principi di economia, e che non sanno delegare e hanno un ego, un superego così distruttivo. Cioè il passaggio è difficile. Sì, soprattutto per un fatto di superego, perché lì entra poi l'antropologia mediterranea, cioè voglio dire. C'è un dato antropologico, l'economia non spiega nulla. Certo. Nella successione di imprese, infatti, nella fenomeno dell'impresa, l'economia non spiega nulla. È antropologico il problema. Ecco, infatti il fenomeno è il fenomeno dell'eredità dei figli, perché certo, fanno spesso il mestiere dei padri, il notaio fa il notaio, l'avvocato fa l'avvocato, l'industriale l'industriale. Beh, nelle imprese c'è però qualcosa di tragico, li mandano all'università e non gli fanno fare l'istituto tecnico. Questa e quindi è la vera questi tragedia, crescono dice, come dei principini, hanno tutti le MB, fanno tutte queste cose che hanno distrutto le imprese, che sono le business school, e non vogliono mica più andare in fabbrica, certo, non vogliono mica è troppo più, fatica. Vogliono fare la strategia, vogliono fare la finanza, e dopo un po' vanno a picco. Oppure vendono le aziende fondate dai padri. Oppure vendono le aziende. Naturalmente tirare di lima o spremere fatica per farsi venire delle idee innovative è molto più faticoso che prendere un MBA. E no? Quindi questo è il rischio più grande che corre il capitalismo, certo, familiare. Certo, questo è di aristocratizzarsi. Fanno i principini e non fanno più gli imprenditori, cioè quelli che tirano sulla clerc. Certo. Senta, lei è anche molto critico con l'Europa, se ho capito bene. Sì, l'euro non ha aiutato le imprese familiari. No, in Italia. No, l'euro non ha aiutato. L'euro perché? L'euro perché si è combinato con questa follia di poter fare uno Stato federale. La moneta unica andava bene, guarda, gli Stati Uniti hanno una moneta unica, ma gli Stati hanno libertà di bilancio. Certo. Quindi già è stato un azzardo la moneta unica, però l'abbiamo fatta. Lei sa bene che Buffy non voleva neanche lo SME, il sistema di oscillazione delle monete. Vabbè, abbiamo fatto la moneta unica perché così ci illudevamo. In questo momento non si capisce chi la voleva, perché tutti incominciano a dire un po' che, no. No, no, no, no, no, no, no. Cioè, I banchieri diciamo, centrali canta, che la volevano non erano tante. Carta canta, c'è scritto tutto, insomma la volevano i francesi e gli italiani per paura politica dei tedeschi. Carli non la voleva, per esempio. Beh, Carli era un uomo intelligente, dobbiamo mettere Carli rispetto a Ciampi, ma abbia pazienza, dai. Adesso vedo che ormai è l'adulazione che guida. No, non è il nostro caso. Ma voglio dire, non mi mica mettere Carli rispetto a quelli che sono venuti dopo, per favore, dai. Bene, infatti, va bene. Grazie professore. Oggi a Radio 24, come tutte le radio italiane, ricorda le vittime del terrorismo del 13 novembre a Parigi con un brano di questa canzone. Per le telefonate 349-238-6666 per gli sms. E allora adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Dunque, in Italia il 90% delle imprese a conduzione familiare, il 43% degli imprenditori ha più di 60 anni. Vuol dire che ogni anno oltre 60.000 aziende affrontano il problema del passaggio più delicato, l'abbiamo sentito dal professore, quello del passaggio da padre in figlio, e meno di un terzo sopravvive. Allora il modello del nostro capitalismo, che è fortemente familiare, è sulla via del tramonto o no? Se sono opinioni diverse, Mario, secondo sì. te? Ma intanto fammi dire che le cose che ha detto Sapelli erano molto interessanti, condivisibili, soprattutto sulla aristocratizzazione dei figli in sì. particolare. Dobbiamo essere sinceri però, un certo modo di intendere il capitalismo familiare è finito, che poi è quello della nostra produzione fatta in casa, per intenderci. Cioè, voglio dire, prima era automatico, il padre dava l'azienda al figlio, questa poi andava avanti, e andava avanti più o meno con gli stessi metodi di prima. Oggi non è più così. No, certo, cambia, mercati sono diversi. Beh, non so, guarda Pininfarina, tanto per dire, uno dei marchi storici che poi ha fondato nel passaggio tra le varie generazioni. Cioè, avere il prodotto oggi non basta, bisogna avere la leva finanziaria. La cosa che mi spaventa è che i figli, che si sono nel frattempo aristocratizzati, hanno fatto, come ha detto il buon Sapelli, l'MBA, sono diventati tutti degli strateghi, eccetera, alla fine non si affidano a un soggetto esterno, ma vogliono fare di testa loro. Cioè, io penso che ci serva un famiglia manager. Famiglia più manager. Ci sono un famiglie. Manager. Se sì. vogliono salvare le aziende, certo. se no le mandano in marora, come è accaduto. Oppure le vendono. Però ci sono famiglie che sono... La prova provata è invece che del contrario, cioè che il capitalismo familiare in Italia può funzionare, ha successo. Albiera Antinori, che è la vicepresidente del gruppo Antinori, rappresenta la 26esima generazione della sua famiglia. Nel vostro caso, quindi, il capitalismo familiare ha funzionato e ha funzionato bene. Qual è il segreto? Ma dunque, forse non c'è segreti. Credo che ogni generazione debba portare il suo contributo in maniera diversa, rispettando il secolo in cui è, le tematiche che si trova ad affrontare. Sicuramente per noi 26 volte ha funzionato, ci auguriamo che continui. Ce ne siano altre 26. Ecco, ma quali sono gli aspetti certamente positivi di questo business di famiglia? Quelli certamente positivi sono che non c'è nessuno come dei membri di una famiglia appassionati, devoti all'azienda, a tutti i valori che rappresenta, cioè non c'è nessuno, certo, come dei membri familiari, naturale, che ci mette l'entusiasmo. E quelli dentro. Negativi invece? Quelli negativi vengono solo se i membri di famiglia hanno delle tensioni fra di loro, hanno delle incomprensioni, c'è cioè dell'invidia, c'è certo, cioè della gelosia, allora diventa ancora più difficile. Le faccio sentire cosa ci ha detto Daniele Ferrero, amministratore di Venchi, azienda del cioccolato. È vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Non è vietato, diciamo, poi per tutto il resto della... Quindi se uno dei suoi tre figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. Ecco, Albiera Antinori, ha sentito Ferrero, voi siete tre sorelle invece a capo dell'azienda, è l'opposto esatto, come vi siete divisi i compiti voi? Ognuno di noi ha un'area di cui si interessa, ovviamente alcune si accavallano, però ognuno di noi segue delle cose che per carattere, per storia, diciamo per studi, anche disponibilità d'animo si è ricavato. Chiaramente ognuno deve interagire con gli altri perché sennò le cose non vanno avanti. Ha sentito Ferrero? Ferrero loro hanno deciso di tagliare la testa al toro invece? Per noi avere i figli che lavorano per l'azienda è un enorme valore aggiunto. Certamente non è facile essere sicuri che siano adatti, essere sicuri che lo vogliano fare, essere sicuri che possono essere un vero valore aggiunto per l'azienda, certo, rispetto a un manager esterno. Ma se voi non foste figli di vostro padre, avreste ricoperto gli stessi ruoli, pensa? Dunque, lì è più complicato da dire, nel senso che noi, per il mestiere che facciamo, che è legato dalla terra, che è legato alla storia, che è legato a un percorso molto lungo, forse per noi è più semplice, nel senso che si vive la terra e questi valori, il prodotto, da quando fin siamo veramente bambini, e cerchiamo di farlo vivere anche ai nostri figli, proprio per appassionarli a questa cosa, certo. Ma voi avete anche manager esterni che gestiscono o è tutto in mano alla famiglia? No, assolutamente, noi abbiamo un amministratore delegato esterno, abbiamo le figure chiave, tutti che vengono, esterni. Certo. Senta, ma per le generazioni a venire invece però avete preferito, se non sbaglio, creare un trust, così? Assolutamente. Perché? Sì, noi abbiamo preso questa decisione nel 2012, che è una cosa molto poco latina, perché diventa, è come una fondazione che diventa proprietaria di tutti questi beni. Noi siamo sempre stati tirati su con l'idea che quello che arrivava dalla generazione precedente non era nostro, era della famiglia in genere, di una storia, quindi doveva essere preso, nutrito, curato e migliorato, ma solo per essere passato alla generazione a quella dopo. Ma quando entrerà in vigore questo trust? È già in vigore. Ma come funziona 2020? Esattamente in due parole? La parte operativa aziendale rimane la stessa, ma ci sono i trustees che sono a capo di questo trust, che hanno ricevuto una lettera che gli spiega dove tra 90 anni noi speriamo che sia l'azienda, e loro vigilano sul rispetto delle regole che ci siamo dati. Quindi a un certo punto comunque anche voi vi affiderete a manager esterni, diciamo completamente, non più o meno questo. Insomma. No, non è detto, perché anzi loro hanno l'obbligo di assicurarsi che i membri di famiglia siano adatti e che nell'arco della loro vita, soprattutto quando sono giovani, seguono un percorso che eventualmente che può qualificarli, certo. Esatto. Ecco, senta, un'ultimissima cosa. Il capitalismo familiare nel suo insieme, prima o poi, secondo lei, è destinato a finire oppure ha la forza continua di rinnovarsi al suo interno? Credo che, come sempre, ci saranno alcune aziende che non saranno in grado di creare la generazione successiva, ma sono convinta che il capitalismo finanziario ha una forza in sé enorme e che è in grado di passare questi valori unici, soprattutto in Italia. Certo. Quindi io non penso assolutamente che sparirà. Che sparirà, si rinnoverà. Una forte, sì. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Gli sms, dunque, il rapporto fra le famiglie proprietarie e i manager è un punto del discorso molto delicato. Fabio Corsico, che è un manager direttore delle relazioni istituzionali del gruppo Caltagirone, una delle imprese più grandi familiari del paese. Ecco, Corsico, lei ha scritto un libro intitolato Manager di famiglia, come i manager vengono scelti e hanno successo nel capitalismo familiare. Ecco, Corsico, come si fa? Beh, vietato scegliere un manager in un'azienda di famiglia, forse di più che in una public company, nel senso che al di là delle grandi capacità che uno deve avere nella gestione del business, allo stesso tempo quando l'imprenditore passa la propria azienda a un manager c'è anche un qualcosa di soggettivo, di immateriale, cioè il manager che va a guidare un'azienda imprenditoriale deve sposare in qualche modo il DNA dell'azienda, ecco, ma dell'imprenditore dell'azienda, e deve poi saperlo declinare, certo, nel lavoro di tutti i giorni. Ma le aziende hanno sempre bisogno, le aziende familiari hanno sempre bisogno di un manager esterno? Beh, non necessariamente, è chiaro, voglio dire, come nelle public company, se uno ha un grande manager all'interno non lo va a scegliere all'esterno, se uno ha un figlio molto bravo gli fa fare esperienza, lo fa rientrare e questo figlio è in grado e gli dà il potere di prendere il posto del padre, non c'è bisogno del manager esterno. Ecco, spesso queste cose non succedono perché un figlio può avere altri interessi oppure non essere all'altezza. Ma lei scrive che il passaggio generazionale è una balla. In che senso è una balla? È una balla nel senso che è un tema sicuramente importante, ma non è il tema. Allora, parliamoci onestamente, quando un imprenditore fa nascere una grande azienda è un uomo unico, certo, è una persona che crea una cosa e non è riproducibile. Il tema è passare una a qualcuno grande, sia una grande in grado. Qualità, sì. Esatto, a qualcuno che sia in grado e che ha delle grandi qualità per riprodurre e per innovare la stessa qualità che il manager, che l'imprenditore ha creato. Naturalmente, però prima abbiamo sentito poco fa, ci sono realtà incredibili come quella del gruppo Antinori, dove il passaggio generazionale ha funzionato per 26 generazioni. Ma come se lo può spiegare? Beh, insomma, sono un campione del mondo proprio. Beh, sono stati molto bravi, saranno stati evidentemente fortunati, avranno avuto un grande DNA e allo stesso tempo sono riusciti molto probabilmente a creare attraverso le generazioni successive. Certo, 26 generazioni sono tante, sì. Esatto, probabilmente sono stati capaci a creare dei figli non manager ma azionisti, cioè persone che sono riuscite a trovare negli anni sempre dei collaboratori molto bravi, ma a guidare le linee strategiche dell'azienda. Certo, lei lavora nel gruppo Caltagirone, abbiamo detto, che gestisce attività che spaziano l'immobiliare, finanza, editoria, le costruzioni. Il suo azionista è un uomo di forte carattere e di grande potere. Se lui comanda, lei che fa? Cerco di aiutarlo in qualche modo. Hai la fortuna di lavorare in un'azienda con un clima molto buono, con un azionariato stabile e con decisioni che vengono prese in modo razionale, oggettivamente, e vengono prese sui lunghi anni, nel senso che tu non stai, certo, a guardare, si può progettare sul lungo periodo. Puoi progettare sul cibo. L'altra cosa che può essere uno svantaggio è che tu non hai una crescita infinita. Certo, c'è uno stop familiare, hanno pensato di diventare un membro della famiglia, hanno in sbagliato modo, di sostituirsi alla famiglia, alla fine hanno sbagliato molto. Infatti, dopo tanti anni abbiamo visto come manager in Luxottica, per esempio, Guerra è andato a casa, insomma, in qualche modo del vecchio là se n'è liberato. Ecco, quanto è delicato e diverso il rapporto personale in un'azienda a gestione familiare? Un po' l'ha detto, bisogna non pensare di essere della famiglia, insomma. Ma anche perché non è giusto, perché certo, queste cose appartengono all'azionista e tu in quel momento presti un servizio. È come nei film, che magari gli ultimi 5 minuti possono essere brutti. Io penso che la storia fra Luxottica e Guerra sia una storia di successo. Beh, una storia sono straordinaria, certo. Hanno conquistato il mondo. Se poi gli ultimi 5 minuti del film sono stati bellissimi, non è quella la storia. No, certo, naturale, no? Assolutamente. Ci sono altri esempi però che mi vengono in mente, per citarne qualcuno. Non so, Gabetti, grande Stevens, prima fedelissimi dell'avvocato e detentori di tutti i segreti dell'avvocato, poi denunciati, invece messi alla gogna dalla figlia Margherita. Cioè, il manager di famiglia sostanzialmente deve essere fedele a uno solo. Diciamo che in quel caso loro sono stati fedeli a una linea di continuità, sono stati fedeli all'avvocato e poi sono stati fedeli a John Elkann per mantenere la continuità aziendale, esatto, in un momento di battaglie fra familiari, e quindi è chiaro che qualche anticorpo da altre parti della famiglia te lo sei preso, certo. Però secondo me la linea di continuità fra l'avvocato Agnelli e John Elkann è tutto il valore, onestamente, che hanno prodotto per il paese. Beh, enorme, perché sì, alla fine comunque sono riusciti a tenere questa azienda in qualche modo italiana, in qualche modo ancorata a un azionista, glielo si deve. Beh, ma oggi chi comanda la Fiat, Marchionne o la famiglia con John Elkann? Mi sembra Marchionne, no? Beh, sicuramente Marchionne ha un ruolo molto importante manageriale, però diciamo una cosa, che il manager, ed è giusto che sia così, governa nei 3 anni in cui ha avuto il mandato. Nel senso che quando scade il consiglio d'amministrazione, in quei 3 anni lui risponde, ed è giusto che risponda a tutti gli azionisti, non a solo quelli di maggioranza, di quello che ha fatto. L'azionista di maggioranza si può riservare ogni 3 anni, se è felice o no, di cambiarlo. Certo. E questo penso che sia una qualità che vale anche per Marchionne e John Elkann. Penso che possa valere per tutti. Senta, ma tra i consigli che lei dà nel suo libro, ce ne sono due interessanti che mi sembra difficile osservare, però, cioè non intromettersi nelle questioni di famiglia, che non è poi così facile. Secondo, non considerarsi mai parte della famiglia. Insomma, sono due facce della stessa medaglia, abbastanza complesse, no? Da far convivere. Noi immaginiamo sempre i grandi gruppi familiari, no? In cui hai grandi consigli di amministrazione, famiglie magari in lite con manager importanti, ma se lei pensa anche al 90% delle aziende italiane che sono fatte da 4 o 5 persone, marito e moglie, un figlio, una figlia che litiga e due impiegati che lavorano nella stessa azienda, probabilmente mischiare le questioni personali con le questioni aziendali è sempre un errore. Certo, quindi alla fine si può dire che il miglior manager non è mai proprietario, a meno che non sia capo, fondatore, eccetera. Io la penso così, io la penso così. Ecco, le faccio un'ultima domanda. La Pininfarina, la Pesenti, sono solo le ultime due aziende di una lista che conta 430 nomi del Made in Italy vendute a gruppi stranieri. Cioè, internazionalizzarsi ha voluto semplicemente vendersi. Non è che il manager bravo è quello anche che preferisce vendere invece che fare investimenti? Ma qui non penso che sia questione di management, qui penso sia questione di aziende. Nel senso che ci sono una serie di famiglie che arrivate alla terza generazione e dopo anni, io penso al caso di Talcementi, penso al caso di Pininfarina, in cui perdevano X all'anno, alla fine il cumulato li porta a dire investiamo in qualcosa più di internazionale, teniamo la governance e continuiamo ad avere un ruolo che dal loro punto di vista è sicuramente giusto e razionale. Il tema reale è che è molto problematico per il paese, nel senso che il modello molto divertente della Thatcher, il famoso modello Wimbledon, cioè gli inglesi non vinceranno mai Wimbledon ma tutti vogliono andare a giocare qua, è bello sulla carta. Ma poi nel momento, dopo due anni che queste aziende prendono il controllo, è chiaro che i centri direzionali si spostano all'estero. Ovvio. Ed è tutto più complicato per il paese. Pensa che capiterà anche la Pirelli questo? Ma la Pirelli è molto ben gestita, ha un manager forte e tosto come Tronchetti, che finché ci sarà lui riuscirà a garantire, secondo me, in qualche modo l'italianità, perché ha una perché vuol dire, come l'ingegner Caltagirone, come Carlo De Benedetti, come Del Vecchio, sono persone che hanno una personalità talmente forte che in qualche modo riescono loro a garantire. Federico da Como che scrive una cosa che dice, Alessandro, mio nonno ha fatto il capannone, mio padre il capannone grande, io il capannone grandissimo, mio figlio si droga. Cioè, tremendo. Però un po' questa cosa della mi spiace dal punto di vista umano. Alessandro dice dateci una tassazione, una burocrazia sui livelli europei, poi vedrete come volano le aziende italiane, che siano familiari o no è un falso problema. È un problema o no? No, Mario. Non è un falso problema, come sta emergendo da queste interviste che stiamo facendo in questa puntata, che parlano per noi di fatto. Certo, in realtà c'è un problema. Io penso che dopo il fondatore, massimo una generazione, tranne casi appunto come quello di Antinori, in realtà si debba andare a una separazione tra azionista e manager. È una cosa più sana, più sana, logica. Noi abbiamo un grandissimo esperto di queste cose al telefono che salutiamo e ringraziamo, Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, ex dell'Enel, dell'Eni, per 10 anni, e questo è l'aspetto che in questo caso ci interessa, è per 10 anni vicepresidente operativo di Techint, la holding della famiglia Rocca. Ecco, dottor Scaroni, buongiorno. Buongiorno. Lei ha lavorato per la famiglia Rocca per circa 10 anni. Cosa significa essere manager di una grande famiglia? Non so se ha seguito un po' la nostra riflessione sul tema dell'impresa familiare. Sì, dunque, l'ho seguita. Io le dirò che non sarei mai entrato in un'impresa familiare se non fosse che io con la famiglia Rocca ho un rapporto d'amicizia storico, conoscevo a memoria i membri della famiglia, che erano miei compagni di scuola, sono padrino dei loro figli, quindi un rapporto proprio stretto, era di famiglia, era di famiglia. Di famiglia. Sono ancora di famiglia, tra parentesi, e quindi non ne farei... come posso dire, un caso replicabile. Ecco. Ma perché dice che non sarebbe mai entrato invece a fare il manager di una famiglia? Ma perché io ho sempre voluto arrivare al top delle aziende nelle quali lavoravo. Ecco, in un'azienda in cui c'è la famiglia che vuole avere un ruolo, diciamo, manageriale, beh, il top è precluso. Certo, e quindi il suo azionista al tempo della Techint, cioè Gianfelice Rocca, era uno col quale, insomma, che rapporto c'era, oltre a quello che ha detto personale? Guardi tu, a quell'epoca... Cioè, chi decideva alla fine? Dunque, a quell'epoca c'era ancora Roberto Rocca, sì, che era il padre di tre fratelli, sì, tra cui appunto Gianfelice, e alla fine chi decideva era lui, anche se la Techint allora, come oggi, ha molti azionisti. Di Rocca sono l'azionista più importante, ma non sono l'unico azionista. Io peraltro, insieme a Gianfelice, mi sono occupato dell'espansione della Techint in Europa, sì, perché la Techint si era sviluppata sostanzialmente in America Latina. In Sud America, sì, certo. Sì, ho passato 11 anni in Techint di grande soddisfazione, lavorando fianco a fianco con Gianfelice. Gianfelice ed io siamo amici e siamo però molto diversi l'uno dall'altro, quindi ci completavamo molto bene. Sì. Ecco, ma secondo lei allora il capitalismo familiare, che poi è l'asse portante del capitalismo italiano, è morto? No, prima di rispondermi, senta cosa ci ha detto proprio ieri qui a Mix 24 Tronchetti Provera a proposito del capitalismo familiare. Ma il modello dell'industria prevalentemente familiare è finito? In America dicono che stia partendo adesso. Ah, cioè rinasce? Guardate, le nuove grandi start-up nascono da individui, proprietà familiari. Problema è la qualità delle persone, la dedizione e la passione. Quindi non è un problema di natura dell'impresa. Non c'entra assolutamente pubblica, privata, c'entra qualità, passione, professionalità delle persone. Ecco, Scarone, è d'accordo con Tronchetti? Dunque, d'accordo con Tronchetti, ma non con l'interpretazione che ne date voi. Scusi, tutte le aziende al mondo nascono familiari. Certo, per forza, è la natura quella. IBM è nata familiare, la Apple è nata familiare, cioè le aziende nascono familiari. Il problema non è come nascono. Certo, Tronchetti dice le aziende nascono familiari, ovvio. Nascono familiari da 2000 anni. E come crescono? Come evolvono, certo. Crescono. Allora, come crescono e come evolvono? In tutto il mondo evolvono che dopo una generazione, nemmeno due, una generazione, sì, diventano delle società gestite managerialmente da dei professionisti, certo, e non da dei figli di, perché il figlio di per sé non significa assolutamente niente. E queste aziende crescono e si sviluppano e tendono a diventare delle istituzioni. Io chiamo istituzioni quelle aziende che vivono a prescindere dai loro azionisti, vivono una loro vita propria. Ecco, in Italia purtroppo questo avviene ancora troppo poco, ed è questa una delle principali ragioni per cui seguiamo un iter devastante. I figli di o i nipoti di si occupano dell'azienda finché va talmente male che la devono vendere. Infatti il drammatico messaggio che abbiamo letto prima. Ecco, ma lei adesso fa il banchiere da Rothschild. Rothschild è il nome di una famiglia. È una famiglia che c'è oppure che non c'è? Dunque, allora c'è il diciamo David Rothschild, il quale tra l'altro ha creato la banca Rothschild, quindi è un imprenditore di prima generazione, sì, malgrado il nome evochi centinaia d'anni, certo, naturalmente. Ecco, ma David Rothschild ha creato la banca Rothschild. Io lavoro lì e devo dire, quando c'è l'imprenditore di prima generazione è un grande piacere lavorare con lui, perché l'imprenditore di prima generazione è per definizione un genio. Certo, ce l'ha tutta in testa l'azienda, certo, esatto, naturalmente. Senta, prima di lasciarlo e ringraziarla, lei è stato, devo per forza fargli questa domanda, è stato amministratore delegato dell'Eni a lungo. Che cosa succede col prezzo del petrolio? Il prezzo del petrolio rimarrà basso a lungo. Perché? Rimarrà basso a lungo perché c'è un tetto naturale che è dato dai costi di produzione del petrolio cosiddetto shale oil americano, che è nell'intorno dei $55 al barile, quindi oltre $55 al barile non andrà per alcuni anni. E per di più c'è una lotta furibonda per quote di mercato nel mondo, tra, in particolare tra Arabia Saudita, Russia e in prospettiva l'Iran, che arriva, non è ancora arrivato, quindi che sta arrivando, che fa sì farà scendere ancora di più il prezzo? Farà scendere ancora di più il prezzo? Ancora di più di $35 al barile? No. Credo di no. Però non sarei sorpreso se andasse a 28 o 30. Diciamo, ma io considero tutto questo un'eccellente notizia per le nostre economie, non una cattiva notizia. Dovrebbe essere ottima, no? Lo offre è, delle opportunità in più. Ma guarda, quali ogni famiglia europea ha in tasca circa 500 euro in più all'anno con questi prezzi del petrolio. Questa mi sembra una Un'ottima notizia, ma è anche il segno di una, come dire, di disordini geopolitici che non hanno ritrovato un loro equilibrio? Un po' l'ha detto, sì. Sì, di sicuro in Medio Oriente si sta combattendo una grande battaglia tra l'Arabia Saudita, una monarchia sunnita araba, contro l'Iran, che è una repubblica sciita non araba. Certo. Tra queste due grandi potenze del Medio Oriente c'è una battaglia in corso e il petrolio è l'oggetto. Grazie dottor Scaroni, grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, per le telefonate 349 238 6666, per gli SMS. Pubblicità. Mix 24. Rassicuro i nostri ascoltatori che era chiaro che la battuta era di Albanese, quella sul figlio che si droga, non era la storia di un nostro ascoltatore, era lui che citava. Certo, francamente io avevo capito la sua. Vabbè, l'ho letta male io. Forse. Non sono un cultore colpa di Albanese. Mia, la canzone di Pietrangelo. Ho detto, ma no. È successo che, sai, il meriggio, l'albeggiare, il tramonto, ogni transito offre la possibilità ai prigionieri di vagare e trovano sempre la verità più difficile, e cioè che in realtà nessuno è mai nel giusto. Finite le ideologie, sono cominciate nuove guerre, nuovi odi, nuovi prigioni. E questa notte ho sognato Ezra Pound. E siccome c'è sempre da augurarsi il buon nuovo sole, Pound mi ha ricordato una sua sentenza: quello che veramente ami rimane, il resto è scorie. Mario. Dopo sta botta di poesia sono praticamente quasi, dai che ti giù. Riprendi, non so in fretta, ce la faccio. Tu ce la fai, ce la andiamo fai. Un po' di ritmo a sta roba, E con gli Wham di George Michael abbiamo veramente toccato il fondo. Facciamolo sentire ancora. No, vabbè, questo era un pezzo però divertente. Poi George Michael è un grande, si può dire quello che vuole, ma insomma. Giovanni, siamo alla battaglia delle lettere tra l'Unione Europea e il governo italiano. Stamattina ho letto il Corriere della Sera, che riporta bene, racconta bene la notizia, eccetera. Insomma, il 19 novembre scorso l'Unione Europea ci ha mandato una bella letterina con i suoi commissari per dirci che non potevamo fare il salvataggio delle quattro banche attraverso il fondo di tutela dei depositi. Certo. Salvataggio che sarebbe stato, diciamo, omnicomprensivo. Che era quello che voleva il governo. Era quello che voleva il governo. E ma suggeriva sopra la Banca d'Italia anche. Sì, no? Ma soprattutto appunto che voleva il sistema bancario, che in questo caso si sarebbe accollato, diciamo, in toto il salvataggio. Devo dire, dal punto di vista sostanziale, si poteva anche accettare, secondo me, questa idea. Però la realtà è che non si fidano di noi. Questo è il punto chiave della faccenda. Adesso la cosa interessante che sta venendo fuori è che il governo vorrebbe rispondere alzando il tiro pubblicando il carteggio riservato tra l'Unione Europea e l'Italia. Si può fare? Sì, si può fare. Cosa ce ne viene? dal punto di vista interno forse un po' di consenso al, sì, al governo, alla maggioranza eccetera, dal punto di vista delle relazioni con l'Unione Europea, certo, secondo me non aiuta, è una pessima idea. Ricordo che la scorsa settimana la Banca Centrale Europea ha acquistato 11 miliardi di titoli di Stato e con il suo quantitative easing, sono un programma da 60 miliardi al mese. Noi siamo un paese che beneficia di questo, non so se conviene a un paese con 2000 miliardi di debito avere una relazione, diciamo così, difficile, antagonista. Già abbiamo un problema con la Merkel. Forse non conviene. Forse, beh, non lo so. Io, vabbè, la diplomazia, problema, la diplomazia è una cosa. Pone il problema. Tu fai tu un'altra. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS in qualche modo collegato a quello che stavi dicendo. Sì, parliamo, sì, di magistrati, parliamo di magistrati, un magistrato, sì, particolare. Ne parliamo con Luca Palamara. Buongiorno, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, componente della sezione disciplinare. Buongiorno. Buongiorno, ecco, a voi, ecco, è la sua sezione che giudicherà sul caso del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che no, indaga... Non sarà la mia sezione, vabbè, ma la prima, ma insomma, commissione, quella che si occupa degli incarichi e delle incompatibilità. È stato aperto un dossier, no? Su questo è caso. È stato aperto una pratica che adesso dovrà portare a esaminare la questione, perché penso che interesse di tutti. Esatto. Fare chiarezza con la su questo punto. Trasparenza, quello che è accaduto, anche se siamo di fronte ad un'attività già previamente autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè il Consiglio Superiore aveva detto a Rossi: puoi andare a Palazzo Chigi e fare il consulente. Questo, come, no? Di prassi avviene in queste situazioni che riguardano evidentemente non solo Rossi ma altri magistrati, immagino, che danno un supporto tecnico giuridico in determinate, come, specifiche materie. Ecco, ma allora il profilo di incompatibilità dove può essere? Nella retribuzione, se c'è, non lo so, in cosa? Ma diciamo che adesso siamo in una fase del tutto eventuale. Istruttoria. L'incarico era gratuito, poi certo, previsto un rimborso spese. Vabbè, è giusto, normale, chiarire i rapporti tra l'indagine e l'incarico, e quindi. Ma perché ha aperto un, perché ha aperto un dossier se è una prassi normale? Diciamo che è una prassi normale, c'è stata la richiesta di un consigliere. Se il CSM aveva già dato, parere favorevole, il problema dov'è? Non appunto, questo per avere un ulteriore scrupolo di chiarezza, voglio non pensare male, e dall'altro lato, come dire, penso che la cosa importante è evitare ogni strumentalizzazione sulla vicenda. Appunto, quindi ma è, insomma, giusto, è giusto chiarire, ripercorrere i passaggi che hanno portato... Se prima c'è l'autorizzazione, poi certo, successivamente alla richiesta di chiarimento, ad un eventuale profilo di valutazione della situazione. C'è, c'è un po' di c'è un po' di confusione nel CSM, mi lasci dire, cioè questa le guerre interne tra le correnti aiutano o minano la credibilità? Invece che, come dire, tensioni della politica vengono portate scaricate lì del Consiglio Superiore, visto, ma se fosse autonomo non sarebbe possibile. Noi vogliamo un consiglio autonomo, ecco, la vostra autoriforma va in questa direzione? La nostra autoriforma va assolutamente in questa direzione. Penso che per affermare l'autonomia e l'indipendenza ci vuole credibilità. La, esatto, credibilità passa per saper leggere tutte quelle situazioni che non vanno, ivi compreso quell'eccesso di corporativismo che in certi momenti rischia di non far comprendere il processo di autoriforma che invece questo Consiglio vuole intraprendere. Perché abbiamo visto trasmissioni che hanno raccontato un CSM che sembrava il Parlamento. Abbiamo visto le trasmissioni che hanno fatto una bella marmellata, indubbiamente quando si fa la marmellata ci sono cose vere, cose non vere, che rischiano, come dire, di deformare la realtà. Siamo consapevoli noi per primi che le situazioni non vanno, ma mai come in questo momento abbiamo bisogno anche di chi fa una critica costruttiva, certo, e ragionata, non, certo, di chi scimmiotta un'istituzione che invece penso, vabbè, che è al servizio, a presidio della libertà non, senta, solo dei magistrati ma di tutti i cittadini. Senta Palamara, comunque c'è un magistrato oggi che sembra sempre di più in qualche modo un salvatore della patria, che è Raffaele Cantone. Ecco, adesso è chiamato a fare anche da arbitro sul caso dei risparmiatori. È normale? Allora, io penso che chiaramente bisognerà attendere quello che farà il governo. Naturale. Cioè, è chiaro che c'è però, un insomma, di... ci sono delle istituzioni che devono sorvegliare. Cantone sorveglia e sorveglianti? Assolutamente, Consob e Banca d'Italia già ci sono, e quindi il rischio di sovrapposizione è un'espressione che è stata usata in questi giorni e che mi trova perfettamente d'accordo. No, io glielo chiedo perché il Presidente della Repubblica nel suo discorso di Natale ha detto di fare attenzione alla sovrapposizione, quindi immagino che si riferisse a quelle proprio. Questo chiaramente immagino, io mi limito a recepire il discorso del Presidente, e come mia opinione posso dire che indubbiamente c'è un rischio di sovrapposizione, così come dall'altro lato ci può essere un rischio di sovraesposizione. Fermo restando la competenza che in questi mesi ha dimostrato. No, ma quello è fuori discussione, però se fanno tutto loro bisognerà vedere e valutare quale tipo di discorso ci sarà, anche perché poi come dire, rendere obbligatorio un arbitrato non sarà un'operazione sicuramente semplice. Ah, certo. Va bene, grazie Palamara, ci risentiremo. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS è Salamino. Oggi si cambia musica. Oggi è il 23 dicembre. Domani è la vigilia di Natale e vi faccio sentire la voce di Batul Hanif, una psichiatra bolzanina, e quella di Abdellah Labdidi, il segretario di Partecipazione e Spiritualità Musulmana. Ascoltate. Io sicuramente faccio gli auguri a tutti gli italiani per queste festività e questo Natale in particolare. Penso che a tutti piacciono i momenti di festività in cui le città sono addobbate, accese, e anche noi insomma gioiamo insieme a tutta la collettività. Noi in PSM abbiamo colto anche questa occasione, questa coincidenza, per una campagna nazionale che faremo nelle piazze d'Italia per augurare buone feste ai nostri concittadini, sia cristiani sia musulmani, perché è per dire e ribadire, perché per noi musulmani Gesù Cristo e Muhammad sono raggi della medesima luce. Raggi della stessa luce è un servizio di Alessandro Puglia per Repubblica TV, e il manifesto di cui parla Abdidi dice così: buone feste ai cristiani e ai musulmani, tanto vicini da celebrare le nascite dei messaggeri di pace. 25 dicembre il Natale di Gesù, pace su di lui. 23 dicembre la nascita di Muhammad, pace su di lui. Sono i due messaggeri, raggi della stessa luce. E sul manifesto, Giovanni, per accompagnare l'iniziativa dei credenti, sono riportate le frasi di Gesù e di Maometto. Ah. Amate i vostri nemici, dice il Cristo, fate del bene a coloro che vi odiano. In risposta, dice Muhammad, avvicina chi ti allontana, dona a chi ti priva e perdona a chi ti fa del male. E poi ancora, ama il prossimo tuo come te stesso, la parola di Gesù. E poi la parola di Maometto: nessuno di voi ha fede finché non ama per il proprio prossimo ciò che ama per se stesso. Dunque, raggi della stessa luce. E questo è il tema dell'augurio, dell'iniziativa dell'Associazione di Partecipazione e Spiritualità Musulmana. E io non ho chiesto il permesso, ma sono sicuro che me lo dà dopo avervi dato questa notizia. Affido a voi, per i vostri pranzi, per le cene, per le tombolate, per le sorprese ai bimbi, la canzone di Giorgio Conte, a cui appunto non ho chiesto il permesso, ed è Stringimi forte, abbracciami. Stringimi forte, abbracciami, prima che si alzi il vento. Stringimi forte, abbracciami, prima che scada. Ho anche una notizia di pace, posso? Sì, dai. Me l'ha segnalata al volo un mio amico. E niente, la comunità islamica ha regalato un presepe al sindaco di Annone Veneto il 23 dicembre scorso in occasione della vigilia di Natale. Insomma, mi pare un altro ottimo segnale. Noi cerchiamo di dare elementi per saperne di più. Sempre. Per avere un po' di conoscenza prima di esprimere opinioni. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24 Canzoniere. la luce uniforme, dalle navi alla città. Solo il passo che alla notte solitario si percuote per la notte, dalle navi solitario ripercuote. Così vasta, così ambigua, per la notte così pura l'acqua. Allora 800 24 00 24, e l'avevamo già fatto. Ci abbiamo Daniele, mamma mia che velocità, Daniele da Ragusa? No. Da dove? Daniela, Daniela. Non da leggo. Siracusa. Da Siracusa, non ho capito niente. Daniela da Siracusa, allora buongiorno. Buongiorno. Buon Natale intanto. Grazie anche a voi. Lo dico perché noi oggi, per fortuna, chiudiamo per qualche giorno, facciamo replica. Allora, io canti ostici di No Campana. Giusto. Brava, bravissima. Allora ha vinto. Grande poeta, poco studiato. C'è ancora una bolla, Mario. Sì, sì, sì, sì. Dai, questo è un enorme Bob Marley. Abbiamo ripescato dal nostro archivio della memoria dei pezzi che hanno fatto un po' la nostra anche storia personale. Non senti che ritmo meraviglioso. Bene, allora, con queste note che sanno di Giamaica, che sanno di libertà, diamo una notizia, la do secca. 1 milione di migranti è entrato in Europa nel 2015. Sembra una cosa piccola, ma in realtà, perché 1 milione è un numero piccolo rispetto ai numeri grandi dell'Europa, ma in realtà non succedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e credo che in questi giorni tutti debbano fare una riflessione sui contenuti e sulle sfide che ci propone la contemporaneità. Sono tempi difficili e servono persone che hanno carattere per affrontarli. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Come sempre il professor Roberto Bernabei ci commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, novembre 2015. L'associazione tra l'utilizzo del computer e la comunicazione con i pazienti. Tutti ci abbiamo esperienza della visita dal nostro medico e di come è fondamentale il rapporto che c'è tra il paziente e il medico. Insomma, se i due non si pigliano, o se soprattutto il medico non fa uno sforzo di comunicare, certamente il nostro incontro è di scarsa soddisfazione. Oggi si è inserito il computer. Il computer è un pezzo fondamentale dell'ambulatorio del medico, perché serve per conservare i dati, per sapere tutti gli esami come sono andati, insomma per tenere traccia della nostra storia medica dentro la macchina. E allora questo computer influenza la comunicazione tra io paziente e te medico? Gli americani, come al solito, non si fanno mancare nulla e sono andati a vedere se questo computer influisce o meno. E allora esce fuori che il computer influisce tanto, perché quelli che avevano il medico di fronte che faceva un largo uso del computer avevano una votazione della visita come eccellente nella metà dei casi. Quelli che invece avevano il medico che faceva un uso molto parco, molto morigerato del computer, avevano una gradazione della visita come eccellente nell'85% dei casi. Cioè a dire, la gente vuole la faccia, vuole le parole, non vuole la macchina. Vuole quindi che questo incontro con il medico sia sostanziato dallo sforzo del medico di averci un rapporto. Non a caso poi gli americani non si fanno mancare nemmeno le raccomandazioni e dicono, allora medico, fai una cosa, guardati i dati nel computer prima che il paziente entri e mai volta le spalle a lui per guardare il computer. Credo che queste due raccomandazioni chiariscano molto bene come comportarci durante la visita con i nostri pazienti. Quindi cambiamo medico se ci volta le spalle per guardare il computer. Forse sì, perché vuol dire che manca il ponte della fiducia. Mario, c'è un'ultimissima? Sì, ci sono perquisizioni della Guardia di Finanza, Civitavecchia, in Banca Etruria, l'indagine sul suicidio purtroppo del pensionato. Segnalo che c'è un attentato in Turchia, all'aeroporto, c'è pure un morto, vediamo che cos'è. E un'ultima cosa, cominciano oggi le consultazioni per fare, forse, pare, sembra, il governo spagnolo, quindi Rajoy vedrà i socialisti. Pietrangelo, anche tu un messaggio? Sì, arrivava nel frattempo. È un messaggio dell'ambasciata all'Istituto Culturale Iraniano. Dice: sarà Natale quando nei cuori degli esseri umani il nome di ogni Dio avrà il volto dell'amore. Oggi abbiamo fatto da ponte. Da ponte, è vero. E prima di chiudere, naturalmente, ricordo che dopo il giornale radio ci sarà la storia di Don Tonino Bello, un personaggio veramente molto molto interessante. Per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto Se ne dicon di parole, cantato da Giuliano Palma. Se ne dicon di parole, gocce come quando piove, del silenzio che c'è poi resta l'eco dentro noi. Se ne dicon di parole, sono schegge di rancore, come artigli di avvoltoi, fredde lame di rasoi. Queste parentesi del cuore sono segreti chiusi in te, fra i rimpianti dicon di parole, non puoi neanche immaginare, sono una pubblicità, cartoline di città. Se ne dicon di parole, tante che ne puoi buttare, figlie dell'aridità, sono lacrime a metà.